Oh, a proposito di previsioni del futuro, non so se avete notato anche voi che il tesserino predisposto dal Ministero della Sanità per consentirci di esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi ai sensi della legge 1 aprile 1999 numero 91, tesserino giunto nelle nostre case insieme al certificato elettorale per il referendum, un documento quest'ultimo del quale ciascuno di voi farà oggi l'uso che crede, è accompagnato da una succinta presentazione a firma, come non è, di un ex ministro. È evidente che la povera Rosy Bindi, quando ha steso quelle poche righe, non supponeva di dover uscire di carica prima ancora che esse fossero recapitate ai destinatari. Ed è un peccato. Ed è un peccato perché quella di portare nelle case di tutti gli elettori la firma pseudochirografa della ministra della Sanità era evidentemente una delle finalità principali dell'invio di quell'oggetto. Ad altro quel cartoncino non sembra possa servire. Si presenta come una tessera ufficiale, paragonabile per aspetto e formato a quelle del codice fiscale o del bancomat, ma è lasciato alla libera compilazione di ognuno. Né è prevista la registrazione in qualsiasi sede pubblica e o sanitaria, sì che la firma che vi siamo invitati ad apporre non avrà valore maggiore di quella tracciata su qualsiasi altro pezzo di carta. Io personalmente ritengo che sia utile e opportuno che ciascuno esprima il proprio punto di vista sull'utilizzazione dei propri miseri resti, se non altro per risparmiare imbarazzi ai superstiti, ma non vedo perché non lo si possa fare su un semplice foglio di carta. L'idea del tesserino da donatore o da non donatore, da conservarsi nel portafoglio o in borsetta tra i propri documenti e da perdere inevitabilmente insieme a quelli, mi sembra, ve lo confesso, bizzarra. Avrebbe un vago senso se si trattasse di un documento vero, rilasciato da un ente abilitato a farlo previ gli opportuni accertamenti e registrato in un'adeguata banca dati. Non lascerebbe dubbi sull'effettiva volontà degli interessati e permetterebbe di accertarla rapidamente e senza problemi. Ma qualcuno deve aver pensato che l'ipotesi di burocratizzare anche le disposizioni sull'uso post mortem dei propri organi fosse, per così dire, eccessiva. D'altra parte affidarsi alla libera iniziativa dei singoli, che in genere a questi argomenti preferiscono pensare il meno possibile, non avrebbe portato molto lontano. Ecco così che qualche cervello pensoso ha avuto l'idea di proporci una libera dichiarazione che simulasse un documento ufficiale. Sarebbe costato qualche lira, senza servire forse un granché, ma se non altro avrebbe testimoniato del genio italiano per il compromesso, e l'invio di quel tesserino naturalmente avrebbe certificato lo zelo con cui la ministra perseguiva il bene comune. Ora, non saprei dirvi se sia colpa del proporzionale o del maggioritario, ma il fatto che quella brava donna non sia più in condizione di trarne i vantaggi che aveva presumibilmente messo nel conto mi sembra una delle ingiustizie più gravi del nostro sistema politico.